l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa da tanti punti di vista. Andiamo alla ricerca delle notizie, di altre attualità, insomma, per raccontarvi un po' quella che è la cultura europea. E lo facciamo con tanti ospiti, lo facciamo anche con voi. Oggi parleremo un po' delle sfide, degli obiettivi del prossimo semestre, dei prossimi 12 mesi dell'Europa. Avremo con noi l'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, ma aspettiamo anche i vostri contributi. L'Europa, che sembra questa entità astratta e invece è così fortemente presente nella nostra quotidianità, sfide ed obiettivi. Quali sono secondo voi? Potete scriverci via SMS al 349-238-6666. Non solo, abbiamo anche le nostre pagine ufficiali nei Facebook che aggiorniamo in diretta con tutti i link relativi agli argomenti toccati. Poi ci sono le nostre storie, le altre storie per raccontare questo bel continente, e partiamo dal Tamigi. Elton John che canta sul Tamigi. La Repubblica di qualche giorno fa intitolava Londra e salmoni nel cuore di Londra, così il Tamigi è ritornato a vivere. Il Tamigi, fiume che era stato dichiarato biologicamente morto solo 50 anni fa, ha ripreso a vivere, e ci sono tantissime ricerche che accertano questa bella realtà. Beh, noi che siamo cacciatori di altre storie abbiamo trovato un'italiana, l'unica italiana impegnata in questa operazione di lotta contro l'inquinamento del fiume Tamigi. Ovviamente non di tutto il fiume, lei si occupa solo di una parte, ma adesso ci spiegherà meglio. È nata a Sassari, è una biologa marina, si chiama Rita Serra e da diversi anni appunto vive a Londra e si occupa della pulizia del fiume. Ciao Rita, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Allora, è vero, è tutta realtà, ci sono i salmoni nel Tamigi, sono tornati? Sì, anzi, i salmoni sono stati introdotti tramite un progetto fatto con le scuole che si chiamava Salmone nella classe. È stato un progetto fatto da noi, da Temps 21, dall'organizzazione in cui lavoro e dall'Environmental Agency. Mm-hmm. Dei pescatori hanno continuato negli anni, questo progetto è stato fatto tra il 2007 e il 2008, negli anni, comunque in questi anni, i pescatori hanno continuato ad avvistare i salmoni nel Tamigi. Ovviamente bisogna aspettare ancora un po' per essere completamente sicuri che, insomma, il salmone si stia stabilizzando, però... Insomma, il salmone che diventa un po' simbolo di questo Tamigi che ritorna a vivere. Adesso, Rita, intrecceremo un po' la storia del Tamigi con la tua storia. Cosa ci fa una sassarese lì sul Tamigi per appunto tentare di ripulirlo? Guarda, è stato un po' per caso, perché comunque io sono arrivata qua a Londra per studiare, poi adesso vivo a Londra da 7 anni e da 5 anni lavoro e sono una biologa marina e ho incontrato mio marito qua a Londra, quindi poi ci sono rimasta e sono contentissima, insomma, del lavoro che sto facendo, perché comunque sono abbastanza appassionata di quello che sto facendo ed è molto, molto interessante. Mm-hmm. La tua organizzazione che si chiama? Temps 21, okay. Tamigi 21 in italiano. Perfetto, quindi, ma è un'associazione di volontariato, come la si può strutturare? Allora, guarda, è sicuramente un'associazione non governativa, ci sono adesso i membri dello staff e siamo su una trentina. Sì. Facciamo progetti per migliorare i fiumi e i canali a Londra, in tutta Londra. Come tu hai detto, io mi occupo ovviamente di una sezione, mi occupo della parte est, la sezione del Tamigi di cui mi occupo è quella che va da Tower Bridge fino a un po' dopo le dighe di Londra. E poi nella parte est ovviamente mi occupo anche di altri fiumi e canali. La nostra fortuna è che per ovviamente fare in modo che tutti i progetti che vengono organizzati siano sostenibili abbiamo bisogno dell'aiuto dei volontari. Certo. Quindi nel 2009 abbiamo coinvolto nei nostri eventi 10.000 volontari. Ancora non sappiamo quali siano ovviamente le statistiche per il 2010 perché è appena finito e stiamo raccogliendo tutti i dati, però ovviamente speriamo di aver coinvolto ancora più volontari rispetto all'anno precedente. Rita, voi fate un forte lavoro di educazione culturale anche, no? Di rispetto alla natura, in particolare dei corsi d'acqua, però credo che non sia sufficiente questo. Cos'è successo a Londra? Perché il Tamigi, a differenza di tanti altri fiumi cittadini o di fiumi importanti che attraversano tante nazionalità europee e che l'inquinamento insomma, è ancora la loro quotidianità, sto pensando anche al fiume Po, il fiume Tevere, dove insomma in Italia ci sono stati dei miglioramenti, però non possiamo certo dire che erano fiumi morti, ma non possiamo dire che sono fiumi che insomma che stanno bene. E qual è stato lo scatto a Londra? Cos'è successo nei confronti del Tamigi? Allora, guarda, sicuramente è stata una combinazione di cose. Dal 1960 il governo ha comunque creato delle leggi per impedire che i rifiuti industriali venissero scaricati nel Tamigi e in generale in tutti gli affluenti. Poi da lì ci sono stati anche dei miglioramenti alla rete fognaria e poi da lì diverse organizzazioni, tra cui la nostra, l'Environmental Agency, in Thames Water, hanno iniziato a lavorare insieme e a creare dei progetti che il governo ha finanziato per poter reinserire comunque delle specie che erano assenti, perché come ti ho detto ieri, nel 1950 il Museo delle Scienze Naturali aveva dichiarato il Tamigi biologicamente morto. E poi da lì sono state fatte tantissime campagne, una di quelle che noi seguiamo è comunque quella contro la plastica, e l'altra cosa si è fatta in modo che il Tamigi comunque nella storia di Londra è sempre stato parte della città. Sì. E quindi abbiamo comunque fatto tutta una serie di progetti per poter coinvolgere i cittadini e per fare in modo che il Tamigi venisse vissuto dalla gente che viveva nella città. Questo ovviamente ci ha aiutato perché le persone stesse hanno iniziato a prendersi un po' più cura, diciamo, del fiume, e ancora oggi ci aiutano comunque a rimuovere molte buste di plastica, e come tu sai tutto ciò che sta al di sotto delle buste di plastica sfortunatamente muore. E inoltre i pesci e comunque gli uccelli marini, digerendo la plastica, non possono fare altra fine che quella che è morire. Quindi, certo, per noi è una cosa molto importante. Ripeto, è stata tutta una combinazione di cose. La città si è mossa, il governo si è mosso. Beh sì, insomma, una volontà comune. Quindi, ma secondo te anche sì, con approcci e con progetti replicabili su altri fiumi in Europa? I progetti sì, assolutamente, sono replicabili. La cosa è che comunque sul Tamigi noi ancora oggi ci stiamo lavorando. Ritorniamo nei posti dove comunque sappiamo che ci sono problemi molto grossi e nei quali abbiamo lavorato negli ultimi 20 anni. Continuiamo a lavorarci, continuiamo a lavorare in collaborazione con l'Environmental Agency per cercare di creare, di trovare nuove idee che possano comunque fare in modo che il Tamigi rimanga pulito e che la qualità dell'acqua migliori sempre di più. Certo. Adesso abbiamo raggiunto il punto in cui si sono ripresentate 125 diverse specie di pesci. Però insomma, ecco, non ci stiamo accontentando. È un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Certo. Rita, un'ultima domanda. Cosa dicono, cosa pensano gli inglesi di questa italiana, di questa sarda così appassionata al Tamigi? Guarda, di solito sono abbastanza contenti, anche perché, come ti ho detto, io sono l'unica italiana che lavora nella mia organizzazione e comunque in generale lavoro in un campo che è principalmente inglese. E alla fine sì, hanno comunque, si trovano abbastanza bene in generale con gli italiani. Ci sono tanti italiani che lavorano a Londra. Mm-hmm. E quindi insomma il Tamigi anche parla italiano, questa cosa ci piace. Sì. E Thames, ricordiamo il sito internet della tua organizzazione, se ce lo vuoi dare. Sì, si chiama www.thames21 www.lalta.org.uk. Perfetto, abbiamo aggiornato in diretta anche il nostro profilo facebook.com/l'altra Europa. Ciao Rita, buon lavoro, ci ritroveremo sicuramente. Grazie. In una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao, buon sabato. Ciao. Europost-it. London ITA. Volete fare un viaggio a Londra? Vi interessa andarci per imparare l'inglese? Oppure volete trasferirvi in questa capitale europea? C'è un sito molto utile che fornisce tante informazioni per viaggiare, trovare alberghi e ostelli oppure un alloggio, conoscere le zone della città, ottenere assistenza sanitaria, ma anche per vedere quali eventi ospita e cosa fare la sera. Tutto in italiano per gli utenti italiani. Andate su londonita.com. L'altra Europa. Stavo in Olanda e allí en los sitios cerrados no se può fumare. Y lo respeta todo el mundo. Me parece bien si a la gente le molesta. No me importa salirme a algún lado a fumarme un cigarro, ¿sabes? Yo fumo, pero si estoy comiendo y están fumando al lado, me molesta mucho. Hombre, yo lo veo muy bien que no se permita fumar en ese tipo de establecimiento. Pero hay quien no lo ve con buenos ojos. Parece un poco extremista el cortar... radicalmente. Io credo che si stanno passando. Sono alcune voci che abbiamo rubato in alcuni telegiornali spagnoli. Questa è l'altra Europa e andiamo a vedere quelle che sono le reazioni nelle varie nazioni anche a nuove leggi che arrivano in Spagna. Dal 1 gennaio anche in Spagna è arrivata la legge antifumo, 6 anni di ritardo rispetto all'Italia, ben 7 rispetto all'Irlanda. Legge antifumo che già c'era, ma solo dal 1 gennaio di fatto è diventata esecutiva con le nuove norme. Restrizioni fortissime, una delle leggi antifumo più dure di tutta Europa, niente più segreti nei bar, nei ristoranti, in molte aree pubbliche, ma anche e per esempio nei parchi o nelle aree all'aperto vicine agli ospedali. Insomma, devo confessare che sono stato in Spagna pochi mesi fa ed è strano, era strano, insomma, ti colpiva, te ne accorgevi subito, entravi nei locali pubblici e comunque c'era questo alone di fumo dove noi, per fortuna, dico io, in Italia ormai non siamo più abituati. Però in Spagna ci sono state reazioni molto controverse. Si teme un calo degli introiti nei locali pubblici, insomma, sì, una reazione tosta, quelli degli spagnoli che faticano ad accettare questa legge. Per capire quello che sta accadendo anche in queste ore abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa, è una giornalista della radio televisione di Castiglia e León, si chiama Cruz Vergara ed è qua con noi. Ciao Cruz, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Ciao. Come va? Va bene? Noi abbastanza. Bueno, questo è il tema del debate di questi primi giorni di gennaio, perché non c'è oltre cosa più importante, sì? E la cosa è che le nostre costume hanno cambiato, perché adesso si vedono gruppi e gruppi di gente alla porta dei locali, dei bar e delle discoteche, con le stufe in forma di fungo, sai? Sì, o lo anche so. La terrazza con le coperte, no? Uh-huh. E questo per noi è nuovo, no? C'è due gruppi, il gruppo stretto che è d'accordo con la legge in tutti i suoi termini, ma un altro gruppo che non è d'accordo, soprattutto perché pensa che questa misura è una misura ipocrita, perché non si può fumare a questi locali, ma si vendono il tabacco con una tassa che hanno arrivato quest'anno tantissimo, no? Tu sai, e questo non si capisce bene, no? La legge, se devi dire, che è un'adattazione più stretta, come hai detto, della prima che aveva al 2005, sì. E che con la legge del 2005 gli imprenditori di osteleria avevano fatto uno sforzo importante di adattazione del suo locale con un luogo per fumatore e un luogo per non fumatore, e non si dà una compensazione per questo sforzo economico, e perciò gli imprenditori di osteleria non stanno d'accordo con la legge, no? Chi ne sono i primi ribelli con causa? Pues sono di Andalusia, sono del ristorante di Guadalmina di Marbella, che a questi sì. giorni ha 4.000 euro di multa già. E altro, un altro di Cordova che si chiama l'Espiuma. Le due andano a fare azioni legali contro questa legge. Sì, è una cosa che non si è detto, penso che non lo sapete, è che questa legge è una legge generale, ma le diverse comunità autonome devono regolarla e controllarla e fare la funzione per controllare, fare le polizie. Ma quindi una legge generale che può avere delle deroghe locali, no? La legge può essere diversa per diverse comunità. Qualche comunità può limitare le diverse cose, no? Noi penso che era necessario perché in tantissimi spazi doveva, se non fumi, sopportare il fumo di altri, no? Sì. E non era giusto. Ma penso che una cosa che a me preoccupa, io dico, è dove si trova i nostri diritti, perché con questo governo di Zapatero i nostri diritti sono limitati tutti. Sì, no. Anche se ha una ragione, vamos a dire, una ragione che per la nostra salute, ma non si può fare di polizia. In questa legge si permette che io e tu e qualche altro può dire, denunciare a qualche altro che sta fumando, e penso che questo deve essere la polizia, certo, o non noi, no, perché sennò sarà come se fosse una guerra tra noi. Ma non penso che sia interessante. Cruz, tu sei una fumatrice? No, io ho lasciato di fumare 10 anni fa, ma sono un po' tollerante perché penso che non capisco perché non si può fumare in sono aperti, non posso, mi sembra un po' ipocrita questa misura. Okay, perché che accade con i lavori di tabacco, no? Mm-hmm. Pues, sarebbe meglio, non si capisce. E anche ti dico, per esempio, la comunità catalana. Sì. Stanno pensando l'apertura di coffee shop per fumare marijuana come Olanda. Non si capisce, no? È okay, un contrasentito. Ci sono delle contraddizioni, tu dici. Claro, sono una contraddizione. Suona bene perché si dice, è una reazione positiva, è che si calcolano che circa di 500.000 di persone lasceranno di fumare. Il regalo più caratteristico di questo Natale era la sigaretta elettrica per aspirare un po' di acqua, no? Ma no, penso che sia. Mi preoccupa un po' il senso della legge, che non è una tolleranza per tutti, no? C'è una trasformazione importante. Per esempio, a Saragossa si è formato un club in 2 giorni di fumatori. È una trasformazione di un bar che sarà nel futuro un club di persone. O per esempio il ristorante Guadalmina di Malaga pensa fare una società gastronomica come il nord del nostro paese, a San Sebastián. Tu sai che è un gruppo per mangiare, ma è un gruppo completo di amici. Non è aperto a tutto il pubblico. Certo. Insomma, quindi scappatoi, guarda, sono storie che anche in Italia abbiamo visto, però credo che sia veramente anche un discorso culturale. E capisco anche questa reazione, insomma, probabilmente è troppo rigida e forse non è anche stata spiegata abbastanza bene. È solo l'inizio, però credo che, insomma, alla fine si arriveranno anche dei compromessi importanti e si tenterà anche di cancellare queste contraddizioni che tu ci hai sottolineato. Cruz, grazie davvero come sempre per la tua lucida fotografia della realtà. Ci ritroveremo sicuramente prossimamente qui, sempre all'Altra Europa. Ciao, buon sabato. Ciao. Ciao Cruz, grazie. Europost-it. Uno scambio per cambiare. Scambi all'estero? Un ottimo sistema per imparare e divertirsi. Ecco alcune delle proposte per le prossime settimane. Ce n'è per tutti i gusti. Da uno stage retribuito dai 3 ai 6 mesi presso la sede di Bruxelles del Building Performance Institute per acquisire esperienza nell'area delle politiche energetiche per gli edifici, a una proposta di volontariato in Provenza per la creazione in primavera di una fattoria biologica, fino ad un campo di volontariato per la promozione delle iniziative del volontariato stesso a Praga. Avete già voglia di partire? Informatevi su scambieuropei.com. E questi sono i nostri Europost-it, dritte, segnalazioni, consigli che vi diamo. Anche voi potete inviarcene se ne avete. L'Altra Europa è radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica per contattare la nostra redazione. Tutti i link li trovate poi sulle nostre pagine in radio24.it oppure sulla nostra rubrica nelle pagine ufficiali in facebook.com/l'altra Europa. E adesso è il momento dell'Altra Europa Online, questa rubrica mensile dove vi segnaliamo dove andiamo a caccia di nuove tendenze legate anche alle nuove tecnologie, e lo facciamo dall'Olanda, lo facciamo insieme a Christian Hesser. Lui è l'ideatore di MrHardware.com, un'agenzia che ha proprio nel suo focus quello di andare alla ricerca di nuove tendenze, di nuove strategie per i media online. Ciao Christian, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno, tutto bene? Noi tutto bene, tu? Fantastico. Iniziato bene, iniziato bene l'anno lì in Olanda? Sì. Sì, un anno pieno di fuochi d'artificio anche qua, come da tutte le parti. Christian, come sempre, sai, questa è la domanda d'obbligo, ci devi un po', è anche un po' che tempo che fa questo programma, com'è la temperatura in questi giorni ad Amsterdam? Ma qua fra una settimana probabilmente andiamo a fare il bagno. No, stai scherzando? No, sto scherzando, però dicono che inizia a diventare un po' più caldo adesso. Ok, subito. Allora Christian, cosa hai trovato per noi questa settimana? Sì, guarda, parliamo di viaggiare, parliamo del viaggiatore in Europa, perché l'Europa bisogna anche scoprirla. Certo. Però, come tutti i viaggiatori, ogni tanto ci sono degli inceppi. L'inceppo un tempo fa era, per esempio, la valuta, bisogna sempre cambiare la valuta e adesso abbiamo l'euro. Sì. Un altro inceppo ogni tanto invece può essere la lingua, per esempio. Tu viaggi, immagino. Mm-hmm. Certo. E ogni tanto anche vai in un ristorante, leggi una carta, vuoi mangiare qualcosa. E se la lingua è abbastanza vicina, l'inglese o francese, che ne so, ok, però se vai in Scandinavia, per esempio, cosa fai? Non ti trovi. Uh-huh. Adesso, per trovare delle soluzioni a questi problemi, ci sono delle iniziative. Una di queste è un'applicazione su un iPhone, si chiama Word Lens, che tradotto significa parola e obiettivo, obiettivo dell'obiettivo di una macchina fotografica. Cosa fa questa applicazione? Quando vedi una parola che non conosci in una lingua straniera, indirizzi lo smartphone sulla parola e sullo schermo vedi la traduzione istantanea. Nel senso, non hai più bisogno di scrivere la parola come in Google Translate, per esempio, ma la traduzione viene fatta automaticamente dall'obiettivo della tua smartphone. Allora, questa è un'applicazione per iPhone, tra l'altro abbiamo già linkato anche nelle nostre pagine in Facebook, e c'è proprio la dimostrazione, c'è il video dimostrativo di questa applicazione, è clamorosa, cioè, nel senso che se è veramente così come viene raccontato in questa sorta di pubblicità, è veramente, tu fotografi una scritta in una lingua straniera e automaticamente ti traduce questa fotografia. Guarda Federico, questa è l'idea, Abbiamo già visto anche una reazione su Facebook, Rocco dice abbastanza valida, e quella abbastanza è molto importante, perché come Rocco ha visto è un Samsung all'inizio, cioè non è che funziona ancora esattamente bene, poi se vuoi comprare tutte le lingue devi comprarle, forse una cosa un po' più commerciale, però è una fase in cui bisogna ancora vedere come funziona, non funziona perfettamente, però sono gli inizi di possibilità tecniche che fanno in modo che la nostra vita diventi sempre più facile e che la comunicazione con le altre persone diventa sempre anche più facile. Certo. Seconda indicazione invece, sempre legata al viaggiare in Europa, qual è? Sì. Una delle tendenze importantissime online è la geolocalizzazione. Significa che tutta l'informazione che produciamo noi adesso con i nostri smartphone, con i laptop, su internet, hanno una connotazione geografica. Il che significa che quando io mando un tweet su Twitter posso anche far sapere da dove l'ho mandato. Un social network che sta emergendo in modo abbastanza grande è Foursquare, che è un social network in cui la connotazione geografica è importante. Significa che quando tu vai in un locale, per esempio, in un ristorante, in tutte le parti del mondo, in quel ristorante con Foursquare puoi cercare sullo smartphone se il ristorante è nella lista dei ristoranti. Sì. Nel momento che l'hai trovato, puoi fare un check-in su quel ristorante. Cosa fai in quel modo? Fai sapere alle persone che sono legate a te via il social network, fai sapere che tu in quel momento ti trovi in quel ristorante lì, che è la connotazione geografica. Poi, cosa hanno aggiunto in questo momento? Il fatto che puoi aggiungere fotografie, puoi aggiungere commenti, puoi dare la tua opinione su, per esempio, quello che hai mangiato in quel ristorante. L'opinione può essere positiva, ma può essere anche negativa. Questo è anche il carattere di online. Certo. Questa trasparenza fa in modo che i tuoi amici che ti seguono possano sapere dove sei, e se tu viaggi, per esempio, hai la possibilità di lasciare una traccia anche... Poi c'è questo... Insomma, sì, no, che è bello e anche inquietante, no? Nel senso che è vero che tu puoi decidere poi di spegnere il tuo smartphone e quindi ti fai un po' gli affari tuoi, però c'è anche questo desiderio sempre di mettersi in vetrina, no? Di raccontare il minuto per minuto quotidiano del dove si è e del cosa si fa, però insomma ha anche implicazioni sicuramente positive. Certo, e come tu ben dici, siamo sempre noi che possiamo dire lo usiamo o non lo usiamo, ci sono implicazioni, ma ci sono anche possibilità di nuove sorprese anche positive. E c'è ancora un altro sito che dopo lo metterò sulla pagina Facebook, sì? Che è un sito dove fa vedere proprio sulla mappa geografica dove sei stato, mette giù tutti i punti in un tempo, in una linea, in un timeline, in modo che puoi anche vedere collegato a quando ci sei stato, dove sei stato, e su questi punti vedi sulla cartina geografica dove sei stato, ed ogni punto, se tu lo clicchi, puoi vedere cosa è stato e se hai lasciato qualche traccia. Perfetto, Christian, grazie davvero. Ricordiamo l'Altra Europa Online con Christian Hesser, www.misterharder.com, il sito dell'agenzia di tendenze e strategia per i media online. Buon sabato, certo. Ci ritroviamo qua tra un mesetto. Ancora una cosina, tanti auguri Wikipedia. Ah sì, è vero, che insomma, è vero, bravo, bravo, bravo. Okay. Grazie. Ciao, ci sentiamo nel mese prossimo. Ciao, ciao, ciao Christian. Europost-it. 1000 viaggi fantastici. Le piazze più belle del mondo? Piazza del Mercato a Cracovia, Piazza della Città Vecchia a Praga o il Grote Markt ad Anversa. Le idee più brillanti per un'avventura? Il bungee jumping dalle dighe in Svizzera, lo sci d'alpinismo in Francia o una nuotata tra le orche in Norvegia. I posti più belli dove rubare un bacio? Nel Blarney Castle in Irlanda, nel paese di Kissing in Germania o nel cimitero di Père Lachaise in Francia. E non mancano nemmeno i luoghi dove dormire spendendo poco, i quartieri meno conosciuti, le feste più bizzarre e i posti più suggestivi per sposarsi e mille altre mete curiose, interessanti e intriganti. Per gli appassionati di turismo è davvero da non perdere la nuova guida della Lonely Planet, intitolata 1000 viaggi straordinari dai più classici ai più stravaganti. Costa 25 euro ed è una raccolta tutta da sfogliare anche solo per viaggiare con la fantasia. Per informazioni, lonelyplanetitalia.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa, un programma in collaborazione con Euronet, network di radio europee. Vogliamo raccontare un'Europa, un'altra Europa, lo facciamo anche attraverso voci diverse. Ogni settimana cerchiamo però un tema comune che vogliamo appunto presentarvi attraverso varie sfaccettature. Settimanalmente i dossier finiscono poi su questo sito euronet.eu, quindi vi consiglio di andare a vedere, ad ascoltare quelle che sono le varie opinioni, appunto, e i vari punti di vista. Il tema di questa settimana è il 2011, questo nuovo semestre che si apre per l'Unione Europea, e semestre guida ungherese al quale sarà seguito poi il semestre a guida polacca. Insomma, sfide, obiettivi, ma anche sogni ed emozioni, un po' questo è quello che vogliamo andare a cercare oggi, e di questa Europa che sembra tanto lontana, tanto fredda, invece ci accompagna giorno per giorno. Per capire quella che è l'agenda del 2011 abbiamo convocato un onorevole, noi che solitamente stiamo fuori dai palazzi, oggi invece ci entriamo e lo facciamo molto volentieri. È l'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo. Buongiorno Pittella. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. La troviamo in ufficio, vero? Al lavoro, sì, anche oggi. Sì, sono in ufficio, ma sono un parlamentare che frequenta molto le strade, le case, cioè il territorio, i paesi, le città. Non sono uno di palazzo. No, è vero, e anche la rete, perché insomma... E anche la rete, sì, ha ragione, perfettamente. So che è stato uno dei primi anche a frequentare le pagine Facebook del Parlamento Europeo, ha partecipato a varie chat in diretta, sì, insomma. Sì, sì, è vero, ed è stata un'esperienza bellissima. Centinaia e centinaia di domande provenienti da tutta Europa, vorrei dire da tutto il mondo, a cui ho cercato di rispondere. E poi la chat la faccio anche attraverso la mia pagina di Facebook, le mie pagine di Facebook, quindi non soltanto attraverso quella del Parlamento Europeo. Ogni mese faccio una chat con i cittadini che vogliono parlare con me direttamente. Poi ho tanti sistemi tecnologicamente avanzati per tenere in piedi e alimentare questo colloquio permanente, che credo sia essenziale per avvicinare i cittadini all'Europa. Ma infatti, insomma, c'è questa parola, poi parleremo anche delle sfide politiche del prossimo semestre, dei prossimi 12 mesi. Cioè, l'Europa riesce ad emozionare i cittadini? Cioè, sono comunque interessati, sono curiosi, c'è una ricerca, c'è anche qui un cambio culturale, c'è questa entità che sembra che sia stata imposta dall'alto, invece si riesce a far sentire come cosa viva appunto ai cittadini, agli elettori? Guardi, nonostante tutte le crisi che pure abbiamo avuto, anche le deficienze, le carenze, ogni indagine demoscopica che è stata effettuata anche recentemente ha dimostrato che tra le istituzioni quella europea continua a mantenere il più alto appeal tra i cittadini. Questo significa che c'è ancora una capacità di coinvolgimento. D'altra parte, sulle grandi conquiste che ha portato l'Unione Europea c'è poca discussione, nel senso che insomma, come si fa a non essere coinvolti se una istituzione ti porta la pace? Se la pace è un bene immenso, è un tesoro inestimabile che insomma, ognuno di noi vuole difendere a tutti i costi e sa che con l'Europa lo difende, e oltre alla pace ha portato una moneta unica che ci ha salvato dai disastri, ha portato l'Erasmus che è stato il più bel programma, il dono migliore che l'Europa potesse fare ai giovani che hanno potuto viaggiare, e anche Schengen che è la possibilità di andare, di girare, di viaggiare senza fare controlli, e come si faceva un tempo, io a volte viaggiavo nei paesi dell'est e ogni volta che dovevo passare dalla Repubblica Ceca alla Russia, alla Polonia, erano ore e ore di attesa. Penso ai giovani di ora che si alzano la mattina, vanno su internet, trovano un volo low cost e passano e girano e viaggiano dentro l'Europa senza necessità di esibire documentazioni, sottoporsi a controllo. Insomma, tutto questo riesce ancora a affascinare. Devo dire però che questo non basta, nel senso che il fascino non è dato una volta per tutte, bisogna alimentarlo. Il fascino deve essere arricchito da continue testimonianze di vita, di positività. Cioè, l'Europa deve continuare a piacere attraverso azioni concrete che interessino direttamente i cittadini. Certo. Onorevole, parliamo del 2011, proprio un'agenda, una carrellata di quelli che sono sfide e obiettivi di questo anno, che si è aperta anche in maniera un po' burrascosa con questa guida ungherese che proprio ha combaciato con queste nuove leggi in Ungheria, soprattutto la legge Bavaglio, quella sulla stampa, che insomma ha fatto un po' discutere. Cosa vi aspettate però da questi prossimi due semestri? Guardi, io penso questo, noi come Italia e come deputazione italiana abbiamo due emergenze da portare avanti, che sono la questione delle libertà religiose, quindi di un intervento europeo sulla difesa e per la difesa della libertà di culto, di fede in tutto il mondo, oltre che in Europa, e la questione Battisti, cioè la estradizione di Battisti dal Brasile. Quindi vogliamo concentrare nelle prime settimane, nei primi giorni dalla ripresa, la nostra azione su questi due punti. Dopodiché sul piano generale noi abbiamo intanto l'attivazione del sistema di sorveglianza dei mercati finanziari. Cioè, finalmente l'Europa si è dotata di autorità europee che vigileranno sui mercati finanziari, e questa è una grandissima cosa. Uno può dire: ma a me che me ne frega? No, io sono interessato, ognuno di noi ha un conto in banca e ognuno di noi ha interesse che le banche siano sorvegliate in maniera seria, corretta, perché non succedono i disastri. Ora abbiamo finalmente delle autorità europee che vigileranno su banche, assicurazioni, su addirittura le agenzie di rating, che sono diciamo la causa per alcuni versi di tanti problemi che ci sono stati nel mondo. Primo punto. Secondo punto, dobbiamo attivare questo meccanismo rapido di intervento in caso di crisi finanziarie, quindi questa sorta di fondo monetario europeo. I capi di governo si sono accordati, pensano che si debba fare una modifica al trattato per realizzare questo meccanismo, io penso che non sia necessario, però insomma andiamo a vedere e soprattutto facciamolo subito, perché l'Irlanda ha i problemi che ha, il Portogallo ha i problemi che ha, la Grecia ha avuto i problemi da cui sta uscendo e insomma non vorrei che poi questo sistema si allarghi a macchia d'olio e c'è bisogno di un fondo europeo che intervenga in casi di dissesto finanziario. Ok, quindi la crisi, insomma, ahimè, sarà un lungo filo conduttore anche nell'annata corrente. Un'ultima sfida invece a cui tiene particolarmente per il prossimo quella anno. Quella della crescita, guardi, sì, non possiamo soltanto tagliare, alla fine quando uno taglia tutto la gente muore. Insomma, noi dobbiamo assolutamente mettere qualcosa nelle tasche dei cittadini, alimentare un po' di sviluppo, di crescita, quindi sostenere maggiormente l'economia, le piccole e medie imprese, la scuola, l'università, la ricerca, i giovani, le borse di studio. Per fare questo io sostengo da tempo, insieme a tanti colleghi, il collega Mario Mauro e tanti altri, l'idea di Jacques Delors, che fu il primo a lanciarla, adesso l'ha ripresa anche il ministro Tremonti e ci fa piacere, e cioè che l'Europa si possa lanciare gli eurobond. Gli eurobond sono dei titoli di debito, sostanzialmente come l'Italia fa i BOT, l'Europa dovrebbe fare i bond europei. Per fare che cosa? Per raccogliere i risparmi degli investitori e per finanziare con questi risparmi un grande piano europeo per la crescita. È uno dei modi più semplici per generare sviluppo a partire dall'Unione Europea, ed è essenziale, perché altrimenti, e poi lo dice la gente, si disamora rispetto all'Europa, e la gente che sta male che cosa deve dire? Sì, la gente non guadagna uno stipendio, se i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro, se le piccole imprese muoiono perché non c'è credito adeguato e sufficiente, allora l'Europa può fare qualcosa. Io sostengo con molta forza, con molta decisione, questa idea degli eurobond, perché possiamo raccogliere 1.000 miliardi di euro sul mercato dei risparmiatori e spenderli per il benessere dei nostri cittadini. Onorevole, grazie davvero per averci portato dentro al palazzo, anche se appunto ha aperto, sì, dicendo con che... con un piede dentro e con un piede sempre fuori! insomma, avete capito, potete parlare con l'onorevole nei mille modi che ci ha spiegato prima. Risponderò sempre a tutti. Perfetto, ci ritroveremo sicuramente comunque, grazie, in una delle prossime puntate. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Di festival in festival. Con il nuovo anno l'Europa si riempie di festival strani e interessanti. Se vi piacciono neve, sculture di ghiaccio e gare di abilità e non temete il freddo, non perdetevi il Festival della Neve a Zurigo dal 17 al 22 gennaio. Trovate tutte le informazioni su grindewald.com. Se invece amate stare con il naso all'insù e sognare di volare, c'è il Festival delle Mongolfiere. I palloni dalle forme più strane e buffe, provenienti da tutti i paesi del mondo, si ritrovano in Svizzera, nel paese di Château d'Œux, dal 22 al 30 gennaio. Per saperne di più, ballonchateaudeux.ch. Chi ama il silenzio invece può andare a Londra, dove dal 15 al 30 gennaio c'è il Festival Internazionale del Mimo. 15 giorni di teatro, ma anche di circo, spettacoli coi burattini, arte visuale. Trovate tutto su mimefest.co.uk. L'altra Europa. Jó napot kívánok! Délelőtt megtartotta első együttes ülését a magyar kormány és az Európai Bizottság. A parlamenti találkozón a következő 6 hónap legfontosabb feladatait jelölték ki. Utána Orbán Viktor miniszterelnök 4 szem közt is találkozott José Manuel Barrosoval, az Európai Bizottság elnökével. Abbiamo estrapolato un servizio anche qui dalla televisione ungherese per entrare un po' anche nel clima di questa nazione che ha preso il semestre, la guida del semestre dell'Unione Europea. Un'apertura però è così, con tante discussioni legate a questa legge bavaglio che spaventa. Ci sono degli aggiornamenti anche legati all'ultima ora, nel senso che comunque il primo ministro ungherese ha detto che è disposto a fare marcia indietro per capire quelle che sono state le reazioni però tra i cittadini. Abbiamo invitato Agnes, giornalista freelance e che quindi insomma vive anche sulla propria pelle questa legge. Allora Agnes, cosa sta succedendo? Una legge molto dibattuta anche oggi sulla stampa, ci sono due pagine dedicate a questa legge con forti prese di posizione, perché sembra una legge assolutamente contro la libertà di stampa. Ecco, buongiorno. Allora, se chiedete l'opinione mia, io direi che quello che sta succedendo adesso attorno a questa legge sui media ungherese è una cosa abbastanza, anzi per me assolutamente esagerata, soprattutto nella stampa estera, infatti. Mm-hmm. E dunque, se ci si chiede sull'effetto che tutta la storia ha sull'opinione pubblica ungherese, io direi che si è piuttosto scioccati dall'atmosfera negativa che adesso da qualche settimana circonda questo paese. Mm-hmm. Diversamente detto, bisogna sapere innanzitutto che il governo ungherese odierno è un governo popolare in Ungheria. Attenzione, eletto da pochi mesi, nell'aprile scorso, e che secondo tutti i sondaggi ha addirittura aumentato la sua popolarità nella popolazione. Dunque quando ci si sente dire, quando si legge sui giornali tedeschi, francesi, adesso anche italiani, infatti sono consapevole che l'Ungheria è un paese che va verso la dittatura, che l'Ungheria è un paese, ecco, un autore di Observer ha addirittura scritto che è un piccolo paese schifoso la cui nuova società adesso emana una puzza nauseante. Ecco, confrontarci con queste opinioni ovviamente non può che scioccare l'opinione comune ungherese. Certo. E invece da parte nostra non si sente particolarmente terrorizzata dalle nuove leggi del governo attuale, compresa anche quella sui media. Mm-hmm. Quindi insomma è una grossa dissonanza, tu dici, tra quelle che sono state le reazioni straniere e quelle invece che vive la popolazione. Ma io direi di sì, infatti. Sì, assolutamente, tant'è vero che ci si chiede come mai molti di noi tendono a non capire quello che sta succedendo, altri si stanno formando un'opinione che ovviamente non c'è mai un'opinione pubblica omogenea, è certo. Chiaro, stiamo mm-hmm. parlando di una società di 10 milioni di cittadini, mm-hmm. ma direi che secondo me l'opinione di maggioranza non è che mette in colpa il proprio governo, piuttosto mette in colpa di chi ne parla male. Okay. A livello internazionale. Mm-hmm. Insomma, una legge che va studiata, adesso vedremo anche quelle che saranno le modifiche proposte o promesse, ma comunque ventilate. Ecco, se posso intervenire, certo, su questo punto, se sì. Ho ancora un minuto per sì. dirlo. Ecco, qui bisogna capire bene le parole del premier ungherese, il quale ha proposto un compromesso, secondo me, intelligente l'altro ieri, dicendo, ecco, adesso abbiamo finalmente una traduzione di lingua inglese di questa legge, che esiste solo dall'inizio di questa settimana. Prima non si leggeva, quindi la potevano criticare quelli che leggevano l'ungherese, ma tutte quelle critiche arrivate dall'estero, appunto, su che cosa sono fondate? Dunque, lui dice, adesso c'è una traduzione inglese e l'abbiamo trasmessa alla Commissione europea e adesso la Commissione europea vede se ci sono veramente elementi che sono incompatibili con le norme europee. E allora, in tal caso, se la Commissione europea punta a un elemento dicendo che è incompatibile, l'Ungheria vede di cambiarlo. Mm-hmm. Però, aggiunge sempre il governo ungherese, sappiate che la nostra legge sui media è composta esclusivamente da elementi esistenti già nella legislazione di altri paesi europei. E quindi, dunque, insomma, se vogliamo evitare la discriminazione, che è una norma europea di evitare la discriminazione tra paesi, una volta che cambiamo un elemento criticato della legge ungherese, bisogna vedere dove si ritrova in un altro paese o in diversi altri paesi europei cambiarlo anche lì. Quello sicuramente, insomma, andremo a vedere come procederà, ci ritroveremo per capire un po' anche il polso della situazione, per vedere dov'è la verità e se veramente comunque la libertà di stampa verrà preservata anche in Ungheria. Ciao Agnes, grazie per essere stata qua con noi. Ciao e buon sabato. Il tempo corre, ma insomma, una bella storia per chiudere questa puntata dell'Altra Europa, anche perché parleremo di Europa attraverso un biellese che però vive in Colorado, ma che ha intenzione di ritornare in Europa per iniziare a portare a termine le prossime settimane un'impresa stranissima, che è quella di dimostrare che si può sciare in tutta Europa. Lui si chiama Pietro Simonetti ed è qua con noi in diretta dal Colorado. Ciao Pietro. Sì, ciao Federico, ciao Raggio 24, scusate per la voce, è un po' prestino qui. E che ore sono? Sono le 2.50 del mattino, le 3:10. Allora Pietro, svegliato un po' presto. Ti abbiamo svegliato perché volevamo comunque dare in anteprima la notizia di questa impresa che adesso ci racconti, però già vogliamo darti un appuntamento, cioè vogliamo essere i primi a parlarne quando poi sarai qui in Europa davvero con gli sci ai piedi per iniziare il tuo itinerario. Carving Europe è un po' questo il nome dell'iniziativa, e ci puoi veramente spiegare cosa ti è saltato in mente, cioè cosa vuoi fare? Beh, diciamo che qualche anno fa abbiamo fatto due maratone sciistiche molto simili, però qui negli Stati Uniti. Prima abbiamo sciato tutte le 28 stazioni del Colorado in 3 giorni, sono un exploit notte e giorno senza mai finire. Poi l'abbiamo ripetuto in California, di nuovo 28 stazioni sciistiche in 4 giorni, e quindi poi cercavamo un altro obiettivo da fare, e l'Europa ci è saltata in testa, perché l'Europa comunque ha tantissime realtà sciistiche molto diverse tra di loro, culture completamente diverse, e abbiamo deciso di fare questo Carving Europe, che è una parola, è un gioco di parole inglese, perché carving è una specialità sciistica, però in inglese vuol dire anche scolpire, quindi è un po' come se volessimo anche capire un po' più bene esattamente come è fatta l'Europa in sé per sé. Ecco, ma cosa vuol dire dimostrare che si può sciare ovunque? Ci puoi fare qualche esempio pratico? Ovviamente in Italia insomma, vai in un qualsiasi comprensorio sciistico e puoi sciare. È così in ogni nazione? Sì, forse la cosa più strana è che partiamo proprio dall'Inghilterra, che non è una nazione conosciuta per lo sci, però lo facciamo, è l'unico posto in cui lo facciamo addirittura indoor, quindi vuol dire che c'è un edificio, è tutto il chiuso, neve artificiale. Però loro lo interpretano così, lo sci, perché è l'unico modo per loro per farlo. Quindi sì, partiamo da questa realtà molto diversa, poi andiamo su in Scozia, dove non sono proprio montagne vere, sono quasi colline, però c'è la neve, e da lì poi proseguiamo nel sud dell'Europa, quindi Spagna e Andorra, dove c'è la neve, certo, e non sono montagne famose come le Alpi, però c'è, e poi continuiamo un po' tutto il giro dell'Europa, passando dalle Alpi, quindi Francia, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, e poi andiamo nei Balcani, che è una zona per noi totalmente sconosciuta. Io ho sciato soltanto a Kranjska Gora e tutte le altre non le conosco. Ecco, però, in Albania si può sciare, per esempio? In Albania ci sono le montagne, però non c'è nessuna stazione sciistica, quindi sarà molto strano. Dovremo scalare una montagna fuori Tirana, che è la capitale, e scendere giù con gli sci. Appunto, la neve c'è di sicuro, perché abbiamo visto che c'è, però non ci sono le stazioni sciistiche lì. In Macedonia, scusa. Sì, no, in Macedonia, dimmi pure. Sì, in Macedonia invece abbiamo trovato che c'è un servizio di gatto delle nevi che ci porterà anche lì su delle montagne a confine con la Grecia, e non sarà una stazione sciistica vera e propria, però si può fare con questo gatto delle nevi, anche quella sarà molto interessante da vedere, da fare. Pietro, 30 paesi in 14 giorni, più o meno questo è l'itinerario che si può trovare sul vostro sito, che ci vuoi ricordare il link esatto, così lo pubblichiamo anche in Facebook, qual è? Sì, è www.acrosstheatlas, che vorrebbe dire intorno al mondo.com. E la cosa migliore sicuramente è andare su Radio 24 a trovare il link lì, perché adesso è una parola inglese e per radio è anche difficile spiegarla. Comunque diciamo che il nome del sito in italiano sarebbe Intorno al Mondo, Across the Atlas. Pietro, la tua storia è una storia molto bella, molto particolare, serve tempo per raccontarla, lo faremo sicuramente la prossima volta quando daremo il via all'impresa, quando con i tuoi sci sarai lì a Manchester e partiremo con te per questo itinerario europeo, ok? Perfetto. Ciao e buona nottata lì in Colorado, grazie davvero. Va bene, grazie mille. E con Pietro Simonetti e la sua impresa chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Ine e a Giorgio De Luca che con me l'hanno scritta, a Peter Bescapè alla parte tecnica, e facebook.com/l'altraeuropa le nostre pagine ufficiali, oppure radio24.it da dove potete riascoltare il podcast. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.